versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, caro ascoltatore di Radio 24, 16:34, primi 27 secondi qua in diretta dagli studi Radio 24 di Milano. Vado subito al punto per consentirvi di decidere se telefonare al numero verde 800 24 00 24 per dirci come la pensate. Facciamo un'altra puntata dedicata al contrario di quello che ci ripetono, cioè continuano a ripeterci che le tasse scenderanno, che è iniziata la grande restituzione. Nella realtà anche stamattina a Parigi, in un bilaterale, il ministro dell'economia Padoan ha dovuto riconoscere che con la legge di stabilità che si farà un passo avanti davvero nei tagli di spesa, perché come avrete capito intanto nel decreto di due venerdì fa, nel decreto quello degli 80 euro per capirci, solo il 44% delle coperture viene da tagli di spesa, e alcuni dei quali molti anche un po' appesi, come i 700 milioni chiesti alle regioni, avrete letto la protesta delle regioni, mentre quindi il 56% viene da nuove entrate, dell'imposta sul risparmio di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, l'aumento del prelievo sulle banche, eccetera eccetera. E allora in questa nuova puntata noi parliamo di tasse sul digitale, le tasse sul digitale, con una particolare attenzione, perché io ho visto uscire un articolo che mi ha fatto ricordare di una cosa che io stesso avevo colpevolissimamente dimenticato. Quando si parla di tasse digitale mettiamo insieme diciamo delle cose un po' diverse. Qualcuno di voi ricorderà che nello scorso fine anno, a dicembre, ci fu un gran dibattito sulla cosiddetta web tax, a proporla era l'onorevole Boccia, contro le grandi multinazionali come Google, Amazon eccetera eccetera. Il tentativo era quello di fargli pagare più tasse in Italia sulla pubblicità raccolta in Italia, anche quando poi in realtà erano in capo a società estere. E arrivò Renzi e disse, quando il testo era praticamente approvato in legge di stabilità, poi spunto e rimesso nel decreto Salva Roma, nella prima versione del decreto Salva Roma a sua volta poi rifiutata dal Quirinale, e Renzi fece passare il principio, è passata una piccola parte di quella web tax, fece passare il principio, secondo me è giusto, che bisogna coordinarla in sede europea quelle imposte, altrimenti quello che si ottiene è semplicemente di adottare con misure contrarie all'ottimizzazione fiscale per i grandi gruppi multinazionali il fatto che si spostino di qua e lascino il nostro mercato per altri paesi che non adottano misure unilaterali, secondo me è giusto. Poi c'è un'altra seconda, diciamo così, categoria di imposte sul digitale, quella del cosiddetto equo compenso. Che cos'è l'equo compenso? Quello che serve a premiare la società autore editore, in Italia la SIAE, per le copie che devono quindi essere, con tutti gli apparecchi con cui le copie possono realizzarle, quindi tutti gli apparecchi digitali, analogici eccetera eccetera. E qui da settimane, anzi da mesi anche, si parla di un aumento considerevolissimo dell'imposta che è attualmente disciplinata nella legge del 2009, perché la SIAE raccolga molti più denari, e il problema è che naturalmente sono sottoposti tutti i tipi di dispositivi che possono fare copia o che hanno memoria digitale, quindi i supporti audio, analogici digitali, quelli adatti alla registrazione, i supporti video, anche qui analogici digitali, e tra le altre cose anche quelle cosette che avete nel telefonino, ognuno di noi ha nel telefonino, che sono poi che cosa? Le SIM sono dei dispositivi di memoria che però sono integrati in apparecchi che hanno funzione di comunicazione. E poiché in un articolo che ho letto dandomi pugni sulla testa, questo articolo ci ricorda qual è l'ammontare pesantissimo della tassazione che già abbiamo sulle SIM, sui nostri telefonini a ogni mese, mi sono detto che era il caso, chiedendo a voi se siete favorevoli ad aumentare le tassazioni per l'equo compenso, per fare la web tax e così via, ma se intanto vi ricordate quello che lo Stato ci fa pagare sulla telefonia cellulare con delle pretese un po' assurde. Allora, per ricapitolare questa cosa, abbiamo con noi esattamente l'autore di quell'articolo. È una persona che si è occupato professionalmente per anni di problemi delle telecomunicazioni in Italia, ne ha anche scritto in libri, oggi fa il consulente d'impresa e tra le altre cose scrive anche sul Libero, ed è sul Libero che è comparso questo articolo pochi giorni fa, relativo alla tassazione digitale e a quella sulle SIM. Davide Giacalone, che ringrazio di essere con noi in collegamento. Buonasera, grazie a voi. Allora, ci spiega Davide Giacalone questa cosa della tassazione, a quanto ammonta, quanto è stato messa e quanto è distorsiva, e perché la tassazione sulle SIM dei telefonini? Allora, la tassazione fu inserita sui cosiddetti telefonini, cioè i telefoni cellulari, addirittura quando ancora non c'era neanche la SIM, perché quando i primi cellulari sul 900 analogico, l'ETAX, funzionavano senza la SIM, quindi, e fu introdotta la tassazione perché considerati beni di lusso. Ora, come diceva Giannino prima, raccontando la storia di alcune tassazioni, anche questa ha esattamente la stessa genesi, e cioè doveva essere una tassazione che doveva pagarla l'operatore di telecomunicazioni, nel giro di 6 mesi diventò una tassa a carico dell'utilizzatore, cioè di chi prende un telefono. Con il digitale, l'inizio quindi del GSM, dentro i telefoni mettiamo quelle francobolli che oggi sono sempre più piccoli, che si chiamano SIM, sono la nostra identità digitale. Su quell'identità digitale, se si fa un abbonamento telefonico, il cittadino privato, singolo, senza azienda, paga 5,16 euro di tassa di concessione governativa, poi paga anche tutto il resto, compresa l'IVA sulle aziende, 5,16 euro di tassa governativa, di concessione governativa al mese. Se si tratta di aziende, paga 12,91 euro al mese sempre in tassa, poi può scaricare l'80% dal proprio imponibile. Questa tassazione qui, oltre ad avere la genesi che ho detto, ha avuto un effetto distorsivo pazzesco, perché l'Italia è stato un mercato esemplare nel campo della telefonia cellulare. Eravamo il mercato più evoluto, più penetrato, a parte quello di alcuni paesi del nord Europa, ma lì era un problema di freddo, cioè che il ghiaccio per terra sconsigliava di mettere i cavi. Ma insomma, nell'Europa continentale siamo stati certamente i primi. Perché nel nostro mercato esemplare le prepagate erano così tanto diffuse, così impressionantemente diffuse rispetto agli altri mercati? Per due ragioni. La prima è che non si paga la tassa di concessione governativa. E la seconda è che dopo l'incubo della bolletta della SIP, nel caso di alcuni di noi, a casa mia per esempio, di mio padre e mia madre, c'era il lucchetto sul telefono, perché non bisognava usare, il telefono c'era ma non bisognava usarlo. E allora il concetto qual era? Per controllare la bolletta io pago prima, e lo Stato non tassava, non tassa ancora oggi, il prepagato. Con risultato però che il traffico nel prepagato costava enormemente di più rispetto al traffico in abbonamento, cioè era un pessimo affare per il consumatore che però non pagava, e quindi un ottimo affare per le compagnie, però non pagava la tassa. Oggi, mentre noi stiamo parlando, si è trovata la distorsione della distorsione, cioè alle aziende piccole e medie che hanno abbonamenti aziendali, quindi a partita IVA, adesso gli operatori propongono delle false prepagate, cioè dice facciamo finta che sono delle prepagate, così tu risparmi la tassa governativa, 12,91 al mese, e me ne dai a me 11, e quindi la tassa non solo agisce da distorsione ma favorisce anche tariffe più alte. Naturalmente questo in realtà, perché poi come sappiamo nel mercato domestico c'è una lotta senza esclusione di colpi per non perdere clienti eccetera eccetera, per un numero di compagnie che forse sono anche in eccesso rispetto a quello che il mercato domestico reggerebbe. Assolutamente, assolutamente sì, ma naturalmente la concorrenza viene fatta sulla tariffa, mentre fino ad ora nessuno era riuscito a concepire una concorrenza sulla tassa, perché ovviamente adesso invece in qualche modo l'ho fatta anche su quella, nel senso che se io ti faccio un'offerta in cui il tuo abbonamento, che quindi dovrebbe portarti a pagare all'incirca 25 euro al bimestre di tassa, non lo faccio comparire come abbonamento ma lo faccio apparire come prepagata, ecco che faccio la concorrenza anche sulla tassa, anche sulla tassa. Però mica ti do 25 euro. Certo. Allora, nell'articolo lei stesso citava che qualche giudice tributario di buonsenso e rettitudine ha trovato oramai questa sopravvivente con tassa di concessione così onerosa e così distorsiva, l'ha ritenuta illegittima. Certo. Eppure sono stati due giudici tributari. La cosa, anche questa, è davvero, la storia del nostro paese è veramente curiosa. Chi si era rivolto al giudice tributario? Gli enti locali, perché in effetti le tasse di concessione governative non dovrebbero essere pagate dai pezzi dello Stato, dagli organi dello Stato, dagli enti locali. E quindi mi ha detto: perché devo pagare la tassa di concessione governativa? E il giudice tributario aveva detto: sì, in effetti non devi pagarla, è illegittima. Però poi è andato oltre dicendo: sì, ma se è illegittima per te, in realtà è illegittima per tutti. Certo. Solo che nessuno ha mai recepito, nessuno ha mai fatto di queste due sentenze, di due sentenze norma, e pertanto teoricamente ciascuno di noi potrebbe avviare una pratica per la restituzione delle tasse versate, ma come noi sappiamo tutti bene, per 5,16 euro al mese, che paghi solo se sei in abbonamento, ti costa di più mettere in piedi la pratica, la scocciatura, veramente è un modo per prendere il cittadino per impazienza e per disperazione. Sì, detto questo, però ci sono ancora milioni di abbonati e 5 euro al mese. Io, ahimè, per esempio, non ho mai cambiato sui due cellulari dall'abbonamento in ricaricabili prepagate. Quindi, quando ho letto l'articolo, mi è venuto un colpo apoplettico, perché dopo anni e anni e anni fa una certa cifra, per così dire. Naturalmente, inutile dire che le risulti Giacalone, qualche politico ha tentato di intervenire prima o dopo la sentenza del giudice tributario, no? No, sostanzialmente le classiche dichiarazioni di rito di quelli che dicono che la pressione fiscale deve diminuire nel frattempo aumenta, ma guardi che comunque le sue due abbonamenti normali, quindi pagando la tassa di concessione governativa, lei è ancora andata bene. Perché se passasse definitivamente la tesi della RAI, lei dovrebbe pagare anche il canone. Ah, certo, non c'è. Quello d'abbonamento alla televisione, perché il suo, quello che lei ha in mano, come tutti quelli che hanno, esatto, in mano gli italiani, computer e smartphone, sono per legge, aperte virgolette, atto o adattabile. Alla ricezione di immagini televisive, quindi dovrebbe pagare anche il canone RAI. Lei giustamente ride. Riderei molto meno pure io se avessi un esercizio commerciale, per esempio i tabaccai che hanno lo schermo del 10 e l'8 e la RAI pretende di avere il canone, perché rido anch'io, ma è paradossale, serio? Perché essendo uno schermo televisivo dove ci sono i numeri del 10 e l'8, cioè di una lotteria statale, esatto. Statale, cioè, allora come uno schermo mi devi dare i soldi dell'abbonamento. Allora, adesso abbiamo i 60 secondi di informazione sulla circolazione stradale, poi ampliamo dopo aver ricordato a tutti cosa paghiamo sui telefonini al mese, se abbonati e non con ricaricabili prepagate. Allarghiamo un secondo la riflessione su come e perché lo Stato vuole ipertassare il digitale. Nel frattempo ci racconta, naturalmente, che il digitale è il moltiplicatore della crescita, però una cosa va un po' pugni con l'altra, secondo me. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:49, 4 secondi di Studio Radio 24 di Milano. Stiamo parlando di tassazione sul digitale. Abbiamo recuperato intanto il ricordo a noi tutti di quello che paghiamo ogni mese se abbiamo una SIM sul telefono cellulare in abbonamento, più di 5 euro al mese e quasi 13 per i contratti aziendali. Abbiamo visto come sia distorsiva nel tempo questa vecchia idea, nata quando i telefonini erano in realtà per ricchi, ma naturalmente è rimasta. Quanto due pronunce dei giudici tributari che l'hanno considerata illegittima rimbalzino di fronte al fatto che per lo Stato quello che conta è continuare a incassare. Ma lo sapevo che bastava citare la RAI e il canone perché i nostri ascoltatori mandassero degli sms. Allora chiedo a Davide Giacalone, che è con noi, consulente d'impresa, esperto di telecomunicazione tra le altre cose, lei di questa idea che ricorre di volta in volta di rendere il pagamento del canone collegato alla bolletta elettrica, perché altrimenti se non lo paghi ti tagliano l'erogazione di corrente elettrica, che ne pensa? Potrebbero anche prendermi in ostaggio, già che ci sono, così, cioè, così sarebbe più invogliato. Non sta in piedi, non potrà mai funzionare. Chi lo dice non sa come funziona il canone. Allora, la legge sul canone stabilisce che io cittadino, stiamo parlando dei privati cittadini, lasciamo parte per ora gli esercizi commerciali, io privato cittadino pago un canone di abbonamento e posso guardare la televisione Pontalloro in tutti i posti dove mi trovo, le case mie o di mia pertinenza, quindi la casa al mare, la casa in montagna, in macchina, posso guardare la televisione. Ora, siccome è difficile supporre che io non abbia degli allacci elettrici nelle altre case, evidentemente non basta caricarlo sulla bolletta elettrica, bisogna accertare che su quella bolletta elettrica c'è un pagatore di canone che me li deve. E anche, diciamo, l'accertamento delle residenze non funziona, perché la RAI ha accelerato il concetto di divorzio veloce e ha introdotto anche quello di divorzio inconsapevole, nel senso che marito e moglie, ove secondo la legge è totalmente possibile, non è un reato, risiedono in posti diversi, li considerano non più marito e moglie e quindi pretende due canoni. Ora, questo non è assolutamente legittimo, Però evidentemente ci sarebbero due bollette elettriche, quindi a unire le due cose sarebbe un moltiplicatore infinito di confusione. Ecco, esatto, però la RAI pensa solo a quello. Tra l'altro siamo in presenza per la prima volta da tempo immemore di un governo che in un suo provvedimento chiede un bel pacchetto di milioni alla RAI, gli indica anche come fare, cedere Rai Way, però il Consiglio di Amministrazione, anche con Gubitosi capo azienda, era stato durissimo nel dire noi siamo tornati in attivo, in realtà in quest'anno non c'erano grandi diritti sportivi, quindi sono tornati in attivo di un pugno di milioni, ma naturalmente abbiamo bisogno di entrate in aumento. Lo Stato invece gli chiede di tagliare per 150 milioni, riuscirà Rai Way secondo lei a fare questa cifra, la cessione eventuale di Rai Way? Ma io francamente non riesco a capire di che stanno parlando. Quando noi paghiamo il canone RAI, che si chiama così perché le signorine buonasera lo chiamavano così quando eravamo piccini, quindi continuiamo a chiamarlo canone, in realtà non è più né canone RAI, è una tassa di possesso del televisore, esatto, o di apparecchi atti o adattabili a ricevere immagini televisive. Sempre questo adattabile che fa venire in dritto. È straordinario, è straordinario. Allora, quando io pago quella tassa, anche se ricevo a casa un allucinante bollettino della URAR Torino, che ricorda anche lì i tempi della nostra infanzia, in realtà io pago una tassa allo Stato, ed è lo Stato che poi con atto ogni anno decide di girare quei soldi integralmente la RAI. Ora, anziché chiedere 150 milioni indietro, non fanno prima a bravo girare 150 milioni in meno? Bravo, bravo. Ma mi sembra bravo. facile, non è complicato. Lo so. Lo so. Io ricordo non ci si subordina a Rai Way. Ecco, esatto, anche perché secondo me non è che siccome non la venderanno a quel punto i 150 milioni restano. Io ricordo poi a chi è in ascolto che la RAI, tutta pubblica, resta inadempiente rispetto all'obbligo, in teoria vincolante, di pubblicare le liste e i compensi dei suoi dirigenti, certo, e anche dei consulenti esterni per ragioni di privacy. Quindi questa è la cosa di fronte alla quale il governo non può neanche dirgli guarda, questo e questo prendono troppo. No, la RAI ha ragione di privacy. Andiamo un secondo, allarghiamo un secondo l'obiettivo. Lei su queste cifre di molti milioni di aumento della tassa sull'equo compenso, perché la SIAE batte cassa, pare che la SIAE in realtà avrebbe steso, avesse steso i provvedimenti, l'avesse scritti lei, di suo pugno. Lei cosa pensa? È giusto? Io preferisco il Regno Unito dove la tassa sull'equo compenso non c'è, francamente. Allora, questa è una materia decisamente più complessa. Che l'opera di ingegno sia pagata è corretto, è giusto che sia così. Che l'opera dell'ingegno sia eternamente intermediata da un soggetto che si chiama editore e non sta né in cielo né in terra. Quindi o si modernizza l'intero sistema oppure semplicemente così non ha senso. E diventa un'ulteriore tassazione impropria. Ma l'idea che lo Stato ci chiede di fronte alla diffusione, che è crescente, anche quella del tablet e così via, e che lo veda come uno strumento per via dell'equo compenso su cui ghermire il più possibile, come ha fatto con la telefonia cellulare ai suoi esordi e poi continuato per decenni, questa roba aiuta davvero un paese che è poco digitale? Continuiamo a raccontarci che questa è una delle regioni della bassa crescita? No, ma questo è abominevole, nel senso che pensare di tassare, anziché il contenuto eventualmente ci fosse da tassarlo e eventualmente fosse possibile tassarlo, perché il problema è quello di tassare il terminale. E loro sostengono che non c'è alternativa, o si fa così oppure sono chiacchiere. Ma perché non sono capaci, ma nel senso che se io devo tassare come un fruitore di cultura con cui devo pagare i diritti d'autore e poeti, quelli che giocano con i videogiochi, con il loro terminale, e hanno perfettamente diritto di farlo, perché il moralismo secondo il quale chi vive allora tu sei scemo, quindi devi pagare, fai quello che ti pare. Quello che gioca con videogiochi paga in effetti quando acquista il software del videogioco. Quando io scarico un libro di poesia anziché d'arte, lo pago e quindi pago anche lì i diritti d'autore. Se non sapete contrastare la pirateria, non è un buon motivo per mettersi a fare i pirati e a rubare i soldi a me che ho comprato un terminale. Si chiama pirateria di Stato questa, secondo me. Io uso sono corsari, esattamente, corsari di Stato. Sentiamo rapidamente alcuni ascoltatori. Oscar, si chiama Oscar da Modena. Oscar da Modena, che ci dice? Buonasera Giannino. Buonasera. Niente, io volevo solo dire questo, l'assurdità. Io, mia moglie che ha una tabaccheria. Sì. Ah, ciò di cui parlavamo prima, sì. Sì, sì. Ed è una cosa assurda. E gli è stato richiesto di pagare il canone Rai a quel punto. Cioè, no, dobbiamo pagarlo. Dovete pagarlo. E hanno fatto l'intimazione, abbiamo dovuto pagarlo. E da notare che il video non è di mia proprietà. Il video è un video della Lottomatica. Della Lottomatica, del concessionario. E non è adattabile, non è adattabile a televisione. Però, senta, ma lei si è rivolto a un avvocato in base alle due pronunce dei giudici tributari per vedere se poteva in qualche maniera ricorrere, oppure ha detto non mi conviene? No, noi ci siamo rivolti al sindacato dei tabaccai, il quale dice abbiamo aperto un'avvertenza, ma al momento bisogna pagare. Al momento bisogna pagare. Solve Trepe, del vecchio principio dello Stato. Prima paghi, poi si vede se non ho ragione io. Grazie Oscar, sentiamo Massimiliano che chiama da Bergamo, prego. Sì, buongiorno. Eccoci. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Sì. Ma io penso che il discorso di controllare il pagamento meno del canone sia frutto anche della tecnologia che c'era prima, dove non potevo in nessun modo avere un'interlocuzione con il singolo abbonato. Penso che col digitale terrestre si sia persa un'occasione, forse ancora recuperabile, di introdurre dei meccanismi di controllo. Ma io questo non lo so, perché qui si parla di qualunque apparecchio adattabile alla ricezione oramai. Comunque ringraziamo Davide Giacalone, lo reinviteremo perché vedo un mucchio di messaggi. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.